la scimmia pesta. Lo cerco, lo cerco, lo devo fermare. Cerco un piteco per farlo ragionare. Come cazzo ho fatto?